Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Si è fatto un gran parlare nelle ultime settimane dei costi del fotovoltaico e non c'è dubbio che in sé questa fonte sia costosa, particolarmente in Italia dove almeno fino ad oggi gli incentivi sono stati alquanto generosi. Ma il mercato dell'energia è una cosa assai più complessa di quella che noi come utenti finali tendenzialmente percepiamo. Per esempio, siamo abituati a un prezzo dell'energia elettrica più o meno fisso, che varia, diciamo così, sulla scala dei mesi. Ma la realtà del mercato giorno per giorno è molto più complessa, tanto che l'analisi degli effetti di questa nuova fonte energetica, il fotovoltaico, sul mercato dell'energia potrebbe nascondere delle sorprese, quanto emerge da uno studio molto recente pubblicato lo scorso 4 aprile, secondo il quale ogni gigawatt di fotovoltaico installato produce, tenetevi forte, un risparmio per la bolletta energetica italiana di 50 milioni di euro. Lo studio è stato commissionato dall'ASPO, l'Associazione per gli Studi sul picco del petrolio, ed è stato effettuato da Francesco Meneguzzi, ricercatore dell'Istituto di Biometeorologia del CNR, il Consiglio Nazionale della Ricerca. Meneguzzo in linea con noi, buonasera Meneguzzo. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Anche se è veramente piuttosto difficile, io le chiedo di spiegarci brevemente come si forma il prezzo dell'energia. È una premessa che dobbiamo fare, anche se un po' complicata, chiedo agli ascoltatori di concentrarsi per un minuto. Sì, il prezzo dell'energia viene stabilito in Italia sul mercato elettrico giorno per giorno in due fasi, sostanzialmente il mercato del giorno prima, cosiddetto MGP, e il mercato poi infragiornaliero, cioè durante ora per ora durante la giornata. Quindi si determinano, cioè, dei prezzi di equilibrio il giorno prima in base anche alle previsioni di domanda del giorno dopo, e poi c'è appunto la fase di aggiustamento nel giorno stesso. E naturalmente è necessario avere un equilibrio perfetto minuto per minuto, perché l'energia non è sostanzialmente stoccabile, certo. Quindi non si può immagazzinare in delle batterie. Noi abbiamo una domanda che varia fortemente durante la giornata di energia, soprattutto durante le ore lavorative c'è un picco di richiesta elettrica e istante per istante bisogna fornire l'energia che è richiesta, no? Assolutamente, istante per istante, e sostanzialmente ci sono due grandi tipi, diciamo, di operatori. C'è l'acquirente unico, che è della società del GSE, del gestore del servizio elettrico, che raccoglie l'energia e la cede, la distribuisce ai consumatori domestici e alle piccolissime imprese. E poi c'è la borsa elettrica, quindi il mercato libero per tutti gli altri. Ecco, quello che però mi sembra importante dire è che istante per istante vengono chiamati a produrre energia, esatto, quindi vari attori. Assolutamente sì, e naturalmente vengono chiamati con un criterio di merito di costo, vale a dire vengono chiamati per primi quelli che costano meno, diciamo così, e alla fine quelli che costano di più, ma tanto di più. Ecco, quanto di più? Nelle ore di picco quanto si arriva a pagare i produttori più costosi di energia? Beh, anche 5 volte, diciamo. Anche più di quello che è incentivata l'energia fotovoltaica, si arriva a 30-35, perfino 40 centesimi a kilowattora. Il problema è proprio che non c'è un rapporto, come dire, lineare di proporzionalità diretta tra quello che è il prezzo ora per ora dell'energia elettrica e invece le variazioni di domanda o di offerta, è vero? È vero, e credo che l'esempio più pertinente in questo senso sia quello del petrolio, perché ha un aumento anche debole, moderato della domanda negli ultimi 10-12 anni e con un'offerta sostanzialmente stagnante è corrisposto un aumento del prezzo del petrolio di 10 volte, cioè da $10 a oltre $100 al barile. Questo appunto a fronte di un aumento della domanda molto piccolo rispetto al totale del consumo. E queste sono proprio le dinamiche di mercato. Assolutamente. Allora, lei ha studiato l'effetto che l'immissione di energia fotovoltaica nel mercato elettrico produce. Quali sono le sue conclusioni? Beh, le conclusioni sostanzialmente sono che l'effetto di peak shaving, si chiama, cioè fa la barba al picco, vuol dire, significa che il fotovoltaico produce nelle ore diurne di massima insolazione e produce di più proprio in estate, quando la domanda elettrica è massima nelle ore diurne. A causa dei condizionatori, certamente, sì. Certamente. Dicevo, allora, il fatto di mettere fuori gioco gli impianti che presentano un maggiore costo, quindi alla fine un maggiore prezzo per il consumatore, fa sì che il manico del coltello, chiamiamolo così, no, si sposta per fare il prezzo dal lato dell'offerta a quello della domanda. Cioè sia l'acquirente unico sia gli acquirenti privati, diciamo, del mercato libero spuntano prezzi molto migliori, tanto migliori che abbiamo calcolato che le incentivazioni certamente piuttosto generose finora sono ampiamente compensate o più che compensate dai risparmi in bolletta. Allora, questa, quindi lei dice, a livello di, no? sistema, sì. Come dire, il calo del costo dell'energia sul mercato è stato superiore ai costi che la collettività paga per il fotovoltaico. Ecco, ha detto molto bene, la collettività, ma specifichiamo cos'è questa collettività. Attenzione, non è la fiscalità generale, sono le bollette elettriche, certo, degli italiani. In altre parole, il fotovoltaico si fa a costo zero, cioè arrivati ai 1000 megawatt, e lì c'è bisogno di incentivi generosi come c'è stato bisogno in Italia, arrivati a quello, da quel momento in poi il fotovoltaico per i consumatori è a costo zero o addirittura a costo negativo. Questo conta un po' una serie di argomentazioni, cioè non si può applicare l'aritmetica, dico costa 2 miliardi sulla bolletta, perché incentivi su 2 miliardi, sì grazie, questa è aritmetica, no? Ma poi sulla componente energia la diminuzione è di 2 miliardi e mezzo, allora d'accordo. Qual è il bilancio? Sì. No, certo, resta il fatto che come dire, gli incentivi fossero stati un po' più bassi, il bilancio sarebbe stato ancora più positivo, perché comunque avremmo realizzato quella potenza. Perché gli incentivi generosi hanno favorito un'installazione di notevole potenza. Ripeto, c'è bisogno di arrivare almeno a 1000, se non a 2000 megawatt per poter incidere sul mercato. D'accordo. Senta, è realistico che altre fonti possano rinnovabili possano godere della stessa dinamica, avere lo stesso effetto? Nessuna come fotovoltaico, perché il fotovoltaico produce soprattutto nelle ore di maggiore consumo, mentre tutte le altre fonti che non sono legate direttamente alla radiazione solare diretta, naturalmente producono in modo molto più random, più casuale. Grazie Francesco Meneguzzo. Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori. Per stasera è tutto, arrivederci a domani.